take the bomb. Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Ma buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Io sono Rachele Copparoni e benvenuti o bentornati in questa nuovissima puntata di Fuji Comics. Ore 10:31 appena scoccate, partiamo puntualissimi per questa 17esima puntata ormai. Speriamo che non porti sfiga, insomma, questo numero 17, ma noi non crediamo a questi modi di dire, quindi insomma, anche questa 17esima puntata di Fuji Comics andrà benissimo, sicuramente. E anche oggi, come sempre, è un mercoledì bello radioso, bello pieno di sole, e questa cosa continua a preoccuparmi sempre di più, perché siamo al 12 febbraio, mercoledì 12 febbraio, qua a Bologna in via Zanardi 369. Adesso vi dico dal telefono esattamente, sono più di 10 gradi, ecco, al 12 di febbraio. A San Valentino io mi ricordo che anni fa andavo in giro col piumone o a carnevale, no? I classici bambini vestiti di 10 strati diversi, e niente. Oggi invece sì e no, che avevo il cappotto, ma continuiamo a essere, che dire, comunque felici per il sole, che ci fa sempre piacere. E partiamo con questa 17esima puntata di Fuji Comics, ricordando come sempre già da subito i vari contatti con cui potete raggiungerci. Allora, partiamo dal nostro numero di telefono 333-180-9494, ve lo ridico più con calma, 333-180-9494, con cui potete mandarci un semplice sms, un messaggino su WhatsApp oppure su Telegram e scriverci un po', non so, cosa state facendo in questo mercoledì mattina, ovviamente, a parte ascoltare Radio Città Fujiko. Andate anche a dare un'occhiata al nostro sito www.radiocittafujiko.it e ovviamente seguite sui social, sia su Facebook che su Instagram, Radio Città Fujiko, e non perdetevi anche Fuji Comics, lo potete trovare anch'esso sia su Facebook che su Instagram. E a proposito, se non mi seguite su Instagram, male, perché solitamente il martedì, il lunedì, insomma qualche giorno prima della diretta, faccio sempre qualche spoiler, qualche piccola anticipazione su quali saranno i contenuti, appunto, delle due ore di diretta del mercoledì mattina. E quindi, se mi seguite su Instagram, avrete già avuto qualche spoiler iniziale, altrimenti con questa prima canzone con cui partono queste due ore di diretta, diciamo che lo spoiler verrà confermato ufficialmente, perché si parte con una canzone di Murubutu, lo pseudonimo di Alessio Mariani, rapper e cantautore italiano, penso un po' da tutti conosciuto. È fondatore e voce del collettivo reggiano La Cattiveria, e lo conoscerete un po' per la sua particolarità di rap così diverso dal solito, rap di ispirazione letteraria, che insomma contraddistingue un po' Murubutu da tutti gli altri rapper, perché unisce l'hip hop con la letteratura, la storia, la filosofia, e anche tra l'altro lui proprio professore di filosofia. Insieme appunto al suo collettivo reggiano La Cattiveria ha pubblicato due album nel 2006, Dove vola l'avvoltoio, e nel 2008 Syllabum Delirorum, mentre nel 2009 contemporaneamente ha anche intrapreso la sua carriera da solista, pubblicando il suo primo album dal titolo Il giovane marinaio e altri racconti, mentre nel 2011 ha pubblicato il suo secondo album dal titolo La bellissima Giulietta e il suo povero padre grafomane. Come prima canzone di questa playlist di oggi ci andiamo a ascoltare Anna e Marzio, che è la canzone di Una storia d'amore. Lei, Anna, è una donna rimasta vedova, rimasta sola, con un profondo bisogno, diciamo, di tornare a essere felice. Incontra nella cella del carcere di fronte a casa sua un nuovo detenuto che, insomma, la affascina e le promette fiori e viaggi insieme. E che dire, quindi, questa canzone, tra l'altro, ha vinto anche il secondo premio del concorso nazionale per cantastorie Giovanni Daffini nel 2010. E che dire, noi ce l'andiamo a ascoltare subito. Murubutu, Anna e Marzio. un'altra storia. Questa è una storia vera, la storia di Anna e Marzio. Anna guardava i suoi fiori come si guardano i figli, esposti al sole in via Solgenizzi numero 15. Il suo balcone fra i tigli era un giardino pensile, fitto di gigli ed ortensi e pogline e resine dense. Sì, sì. Viveva sola da tempo in un appartamento del centro, di fronte al carcere sotto all'interno del vecchio convento. Da quando il marito si era spento in inverno, aveva perso la voglia di guardarsi dentro per sentirsi meglio. Ora sognava un'altra vita, un'altra aurora. Ehi, Anna, bello sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Sognava un nuovo amore che la portasse altrove, ne ridesse ancora ora la gioia di non morire sola. Marzio arrivò nell'ora di un pomeriggio di maggio, tradotto da Regina Celi nel braccio numero 4. Lei lo vide d'un tratto, fu un canto mentre bagnava le dalie. Lui con la chioma maranto intanto sorrideva alle guardie. Marzio Febraro, figlio di un operaio, era stato fabbro, fioraio e soprattutto ladro, diceva di cose e di cuori. I migliori anni io li ho spesi appresso a donne e fiori. Anna annaffiava le ginestre di fronte alla cella corrispondente per seguirne i racconti. Lui amava dirle: le case hanno gli occhi nelle finestre, beh, le tue, bella mia, piangono tutti i giorni. Prendi le viole più belle, stupende, hey. Vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Io ti insieme per sempre, calendule. Vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Ma quanti sono i fiori, hey. Se li ho visti, hey. Sono quanti cuori soli, hey. Se li ho visti, hey. Marzio la incantava intrecciando parole, pareva un attore in azione, un adone dietro le sbarre rugginose. E lei che lo ascoltava durante per ore, mentre un sole sornione allungava l'ombra della prigione fino al balcone. Diceva di sé: vuoi fidarti di me? Sì, sì, ho fatto qualche errore, ma adesso so cosa voglio. Ehi, non ti fidi di me, vuoi fidarti di me? Io ti porterò con me laddove fiorisce il mondo. Vedremo tulipani e lavanda fra i vari fiumi d'Olanda, fra bulbi rari, tra i mulini bianchi della Mancia, fra i rosai di Samarcando di Francia e le ginestre giganti nei grandi giardini de Bahia Blanca. Vedremo l'alba tra i gelsi, rododendri di incensi intensi, mandorli in fiore tra le felci della valle dei templi. Gli arcobaleni e gli steli sono accomunati dall'indaco, i sentieri della moschea azzurra di Istanbul. E nessuno potrà separarci, bella mia, perché saremo due cuori allo specchio nello stesso momento del tempo. E nessuno potrà liberarti di me, perché tu vedi quello che vedo adesso. Senti quello che sento. Prendi le viole più belle, stupende, hey. Vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Io te insieme per sempre, calendule. Vieni, vieni con me, vieni, vieni con. Ma quanti sono i fiori, ehi, se ne ho visti, ehi. Son quanti cuori soli, ehi, se ne ho visti, ehi. Passò un anno più un anno, Marzio finì di scontare la pena. Era il mese di marzo e fuori già si allungava la sera. Aspettami fuori, domani sera sarò fuori per cena. Lei rideva di gioia la bocca e con gli occhi piangeva. Anna arrivò puntuale all'orario previsto, aveva una giacca in mistolino, sul viso un sorriso bellissimo. Attese paziente sotto un fico fiorito in anticipo. Ma per quanto attese, fece mattino senza averlo visto. Dopo ore di attesa, Anna volle capire il destino assurdo. Così triste tesa, si rivolse al secondino di turno. Gli chiese di Marzio, descrivendogli il tipo: signora mia, qui questo Marzio Febraro non è mai esistito. Prendi le viole più belle, stupende, hey. Vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Io te insieme per sempre, calendule. Vieni, vieni con me, vieni, vieni con. Ma quanti sono i fiori, hey. Se ne ho visti, hey. Son quanti cuori soli, hey. Se ne ho visti, hey. Torniamo in diretta dopo aver ascoltato Anna e Marzio di Murubutu e torniamo in diretta soprattutto per parlare un po' di come sarà composta questa 17ª puntata di Fuji Comics, insomma come sarà il menù di queste due ore di diretta. Allora, tornerà come sempre questa prima mezz'ora di Fuji Comics il consiglio di lettura, quindi un artista che è stato ospite in una delle puntate di questo programma ci consiglia qualche cosa da leggere. direttamente dalla sua libreria personale. Oggi siamo tornati a tirare fuori dal cappello il consiglio di Franziska. Franziska è una giovane fumettista italiana, il suo nome d'arte appunto è Franziska, in realtà si chiama Francesca Casano, che appunto ci ha parlato di un grandissimo fumettista, Cyril Pedrosa, e del suo Portugal, ma appunto ne parleremo meglio fra un po'. E a proposito di Murubuto, che abbiamo appena ascoltato, oggi diciamo che lo ascolteremo parecchio, perché sono andata a intervistare Ernesto Anderle, fumettista italiano che ha collaborato, anzi che in realtà da anni collabora appunto con Murubuto, e insieme hanno scritto un nuovo fumetto che si chiama Murubuto Rap Conti Illustrati. I due appunto collaborano già da tempo, perché Ernesto fa i live painting che poi vengono appunto trasmessi durante i concerti live di Murubuto, e dopo anni di collaborazione hanno deciso di preparare insieme questo fumetto, in cui appunto Ernesto ha illustrato 16 delle canzoni, delle sue canzoni preferite di Murubuto, e appunto con lui abbiamo parlato della loro collaborazione, del processo creativo che ha portato Ernesto all'illustrare queste 16 canzoni di Murubuto. Si parlerà tra l'altro anche di Comic Con, il salone del fumetto di Napoli, che ci sarà appunto dal 30 aprile al 3 maggio, anche se ancora c'è tanto tempo. Iniziano, anzi continuano ad uscire, perché già ne avevamo parlato mercoledì discorso, quindi continuano a uscire novità e ospiti speciali che saranno presenti appunto al Comic Con, al Salone del Fumetto di Napoli. Si tornerà anche a parlare di DC Comics e Panini, perché sapete che la Panini ha acquistato i diritti di vendita in Italia per la DC Comics, quindi inizierà a pubblicare proprio da quest'anno, dal 2020, la DC Comics, e quindi novità editoriali, premi di fumetti annunciati, insomma, e come sempre nell'ultima mezz'ora gli eventi di questa settimana, da mercoledì fino a mercoledì prossimo, da questo mercoledì, gli eventi che saranno appunto qui a Bologna. In realtà devo dire che questa settimana ci sono pochi eventi bolognesi dedicati al mondo dei fumetti, quindi ci siamo spostati fino a Ferrara e a Cerea, che è in provincia di Verona, quindi alla fine non troppo lontano da qua, perché entrambe le città sono protagoniste questo fine settimana di una fiera dei fumetti e delle graphic novel. Pertanto appunto siamo arrivati fino a un po' più che in provincia, direi, perché Ferrara e Verona sono comunque più o meno distanti da Bologna, ma rimanete connessi fino sintonizzati fino a mezzogiorno e mezza per ascoltare la voce di Sofia, che ci racconta appunto tutti questi eventi e le fiere fino a Ferrara e a Cerea. Per quanto riguarda la musica, ovviamente sarà caratterizzata queste due ore di diretta dalla musica di Murubuto e in generale un po' dal rap. Volevo partire con una novità, con un duo di ragazzi, Daniele Mugai e Daniele Desi, che probabilmente conoscerete meglio come Frenetic e Orange. Questi due ragazzi hanno iniziato a collaborare nel 2007, esibendosi un po' in tutta Italia, anche in diverse parti d'Europa, e hanno condiviso il palco con tanti artisti di grande calibro come Crookers, Boys Noize, Chemical Brothers, eccetera. E nel 2009 hanno iniziato le loro prime produzioni rap e hip hop, e si sono, diciamo, veramente fin distinti da subito per un sound abbastanza unico, che unisce un po' l'elettronica e strumenti acustici sia nello studio che soprattutto anche nei live. In Italia hanno collaborato già con tantissimi rapper della scena appunto hip hop italiana, da Gemitaiz, Madman, Salmo, Coez, Cleventino, Achille Lauro, Noiz Narcos, insomma veramente tanti rapper della scena appunto italiana. E la canzone che ci andremo a sentire è proprio con uno di loro, perché è con Gemitaiz, e si chiama Giornate Vuote, in collaborazione appunto Frenetic e Orange con Gemitaiz, che ha anticipato l'uscita dell'album 06, uscito appunto per l'etichetta Asian Fake. E che dire, quindi vi volevo un po' spiegare, per chi non conoscesse questo duo, che è appunto abbastanza recente, e ci andiamo a ascoltare Giornate Vuote. Giornate chiedi come faccio quando mi alzo presto. Cazzo lo detesto, ormai ho 30 anni pra, sto diventando vecchio. Mi guardo questa scritta impronte davanti allo specchio. Mi ricorda che sono diverso pure di parecchio. Ora cantano tenendo in mano i soldi come manigoldi. Fanno musica senza ricordi. Non vedo altra soluzione che tagliare i ponti, perché mi fanno senso come gli animali morti. Siamo controversi, zero compromessi. Il divano è per gli strumenti, mica per sedersi. Siamo sotto persi, in studio puzza Jersey. Scrivo 200 pezzi, premi il grilletto Nancy. Senza l'odio della gente non sapresti quanto è bello niente. Mandali a fanculo, scine sorridente. Apri gli occhi e spegni il resto. Se vuoi farlo, fallo adesso. Credici sempre, ama te stesso. Potrei stare con te. Dico per davvero, non dentro le note. Riempire di qualcosa le giornate vuote. Toglierti i bastoni dalle ruote per andare veloce con me. Veloce con me, veloce con me, veloce con me. Toglierti i bastoni dalle ruote. C'è lei che mi manda i messaggi. Sta lì che sogna, vuole fare i viaggi. È bella gli occhi grandi, sembrano paesaggi. Giuro che vorrei portartici dal sole ai ghiacci artici. Ma sono rotto dentro in mezzo agli ingranaggi. Un bacio con la lingua prima che quest'attimo si estingua. Alzati il vestito, slacciami la cinta. Non pensarci troppo, se no poi fai finta. E dopo devo dargli la vinta, mi hanno fatto male. Pensavo di no, baby, ma a quanto pare. Se ti amo mi farei strangolare pure in alto mare. Mi odio poi mi sabato, resto a casa il sabato. Corro nel verso da cui tutti scappano. Mi piace il fuoco addosso, sentire freddo agosto. Cambiare quello che questi qua ci hanno predisposto. Di tutti i bottoni, frate, premo il rosso. So che non esiste, che mi sposto. Potrei stare con te. Dico per davvero, non dentro le note. Riempire di qualcosa le giornate vuote. Toglierti i bastoni dalle ruote. Per andare veloce con me. Veloce con me, veloce con me, veloce con me. Toglierti i bastoni dalle ruote. Potrei stare con te. Dico per davvero, non dentro le note. Riempire di qualcosa le giornate vuote. Toglierti i bastoni dalle ruote. Per andare veloce con me. Veloce con me, veloce con me. Prenderti per farmi dalle ruote. Per andare veloce con me. Intanto qua iniziano ad arrivare messaggi al 333-180-9494 che ci dicono: ciao Rachele, da Reggiana quale sono? Viva Murubutu. E infatti non l'ho detto, ma Murubutu è di Reggio Emilia. Lei dice: mi ha fatto scoprire il mondo della rap teratura, quindi del rap unito alla letteratura. Per l'altro lui era prof nella classe di mia sorella e il giorno del suo esame di maturità c'era la fila per incontrare lui. Curiosissima di ascoltare la puntata di oggi, un bacio e brava la bravissima Rachele. Grazie mille per insomma averci mandato questo messaggio al 333-180-9494 e se anche voi siete curiosi rimanete ancora un po' sintonizzati perché la prossima mezz'ora ci sarà appunto l'intervista a Ernesto Anderle che collabora già da anni con Murubutu. Ma siamo arrivati al primo contenuto esterno che caratterizza questa prima mezz'ora di Fujicomics, cioè il consiglio di lettura della settimana. Quest'oggi abbiamo ripescato un po' dal cappello il contenuto di Francisca, nome d'arte di Francesca Casano, fumettista italiana nata a Ronciglione. Ha iniziato lei fin da piccolissima a disegnare e al liceo è entrata anche a far parte del giornalino scolastico proprio grazie alle strisce umoristiche che creava per fare un po' il verso ai professori, quelli più particolari, diciamo così. Poi successivamente la sua carriera scolastica cambia un po' strada perché decide di laurearsi in architettura, ma a 27 anni la passione per il fumetto rincalza, ritorna nella sua vita e quindi decide di intraprendere un percorso di 2 anni alla Scuola Internazionale di Comics. Si diploma col massimo dei voti e durante questi anni inizia a spalmare come se non ci fosse un domani strisce umoristiche in ogni dove del web, e quindi grazie a questo conquista un po' il suo pubblico, i suoi fans, e grazie soprattutto ai personaggi del Principe Nerazzurro e della Principessa, che sono meravigliosi. E se vi siete persi l'intervista a Franziska sui suoi personaggi spettacolari, andate sul nostro sito www.radiocittafugico.it e andate un po' a recuperarla nella sezione culturale. Franziska ci ha appunto parlato, come vi dicevo prima, di Cyril Pedrosa e del suo Portugal. Questo libro racconta di tre generazioni di una famiglia di emigrati portoghesi e delle loro varie differenti storie. Una di queste storie, quella di Simone, è la storia che è piaciuta di più a Franziska, è la storia che ci racconta lei. E questa storia parla di un giovane disegnatore caduto un po' in un limbo creativo, dal quale spera di uscire tornando proprio a visitare il paese di origine, il paese di origine dei suoi avi. E quindi andiamo direttamente a sentirci le parole di Franziska, che ci consiglia appunto un nuovo libro da leggere questa settimana. Il consiglio della settimana. Allora Francesca, vuoi consigliarci qualcosa da leggere, un fumetto, sia che sia un'ultima uscita che qualcosa che invece sei andata un po' a scavare nella tua libreria personale? Sì, infatti ci ho pensato un po' e diciamo ho preferito andare a consigliarvi un fumetto, diciamo, che mi è rimasto proprio nel cuore, di uno dei miei fumettisti preferiti, che è francese, Cyril Pedrosa, che però in Portugal, diciamo, durante una sua crisi da scrittore, con appunto il blocco da scrittore, la affronta andando poi a scavare, diciamo, le sue origini portoghesi, e quindi ricercando insomma tutti i percorsi che aveva fatto il nonno fino ad arrivare in Francia, riscopre anche se stesso e riesce poi a ritrovare anche la voglia di scrivere e di disegnare dopo un bel periodo cupo. L'ho scelto perché è scritto in modo meraviglioso, prende tantissimo, è un fumetto bello sostanzioso, bello lungo, poi l'edizione della Bow Publishing proprio l'ha stampato anche in dimensioni enormi, però veramente ne vale la pena, perché poi sia col suo tratto che col suo modo di raccontare, insomma, Pedrosa trascina parecchio, e poi perché comunque parlando insomma del mestiere del fumettista, ci sono sempre rimasta molto affezionata, perché un periodo, diciamo, di confusione e di blocco, purtroppo prima o poi capita a tutti gli artisti. L'immagino. Ci tengo molto. Perfetto, grazie mille Francesca per questo tuo consiglio di lettura, io ti ringrazio ancora e ti saluto. Grazie a te. Ciao. Buona giornata. Ciao. Tenemos un negocio, vamos a hacer hombres ricos. Tomamos, ¿no? El gusano. Para la salud. Para la salud. Primero yo. Feeling right, sipping on Jose Cuervo, down in Tijuana, Mexico, thinking of the big score the night before, met the connect, who was impressively dressed in high fabrics, with troops like Beirut, up on the mezzanine, brandishing submachine guns, hey yo, it's all about the money, son, now that's the only reason, we came south of the border to complete this work order, we gotta get it, no looking back, going all out for it, ready to attack, die in a minute flat for it. God is my witness, we got ditches for you motherfucking fake bitches. It all boils down to the business. Nothing personal when niggas acting like they're helping you. I fucking blast you like Frank Castle. Motherfucker. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Running for attention. Brother, you're my ace, but don't ever question. Just do what I say and you'll be rich. And keep this in your mind. Rats lay in the ditch with no spine. Don't ever forget that golden rule in the game. Cheers, they all know your name. It's like fame. Why women and money don't mix, like drinking and driving. Watch those conniving women and keep your eye out. Always be aware of what's around you. They wanna down you and fucking clown you. Keep your shit in order, the money won't stop. Pretty soon you'll be on top. Emergency for my enemies who wanna murder me. Eat the worm, motherfucker, when you burn, motherfucker, better kill me, don't let me return, motherfucker, trust no man, cause I'll be back, you understand, with the plan in my ace in hand, I want it all, I recall the words from Jesus, you want the juice, better go get it, don't let it get to your head, embed it, let these words stick, you better be ready to die, now take a fucking sip, harsh ain't it, but I never lie. Tiene l'aria nel torace, poi riprova un battimento. Giudizi più ingiusti, pietismi, gli insulti, giudizi più insulsi, buonismi di tutti. E Giulia danza nella sala fino a distruggersi, sul palco della scala fino a distruggersi. Poi un soffio d'aria tra di la raggiunse fra i suoi nastri sussurrando lei. Dai, dai, dai, fidati di te, riuscirai, riuscirai, e ce la fai. Danza come il vento, danza come il vento. Dai un nome al vento con il quale danzerai. Segui il vento attento, quattro sensi attento. Porta grazie al vento quando danza tu l'avrai. Raggio dentro il temporale, salza il vento di Grecas. L'aria in senso circolare, danza del suo vorticare. Poi piano piano il buio scende, non le resta scelta. La luce opaca che si spegne diventando tenebra. E non c'è più il suo stile fra le altre ballerine. Le sue scarpe appese al chiodo come due suicide. Per piangere da tempo soffia il vento sopra il vetro. Sembra quasi sussurrarle fra le gocce che ti stai facendo più male tu sola ogni ora. Di quanta te ne ha fatta sta sorte che ti odia. Giulia si alza tra i corpi. cocci dei sogni distrutti. La danza è oltre gli occhi e nel corpo e nei flussi. Questa sera sarà l'arte qua a darle i suoi frutti. Quando ballerà con le altre di fronte a tutto e tutti. Giulia stupisce quando danza nel buio. Mentre balla sopra il palco lascia il pubblico muto. Mossi drappi di Damasco e il sipario ormai chiuso. Prima un battito solo, poi l'applauso e un diluvio. Giulia in casa sente il vento e il profumo. S'addormenta, sogno e i lumi, poi l'applauso diffuso. Sente i fiori sopra il palco, ogni applauso futuro. E non è vero, sai che i ciechi sognano il buio. E un soffio d'aria tra di la raggiunse fra i suoi nastri sussurrandole. Dai, dai, dai, fidati di te. Riuscirai, riuscirai, e ce la fai. Danza come il vento, danza come il vento. Dai un nome al vento con il quale danzerai. Segui il vento a tempo, quattro sensi a tempo. Quanta grazia al vento quando danza tu l'avrai. Raggio dentro il temporale, salza il vento di Grecar. L'aria in senso circolare, danza del suo porticar. Raggio dentro il temporale, salza il vento di Grecar. L'aria in senso circolare, danza del suo porticar. Ore 11.06, torniamo in diretta su Radio Città Fujiko. State ascoltando Fuji Comics con la vostra Rachele Copparoni. E abbiamo appena ascoltato Murubutu con Grecale. Non potevamo che non tornare in diretta proprio dedicando ancora spazio a Murubutu, che sarà un po' uno dei protagonisti di queste due ore di diretta insieme a Ernesto Anderle, che appunto ha pubblicato il fumetto con Becco Giallo Editori proprio insieme a Murubutu. La sua musica è stata definita rap di ispirazione letteraria o letteratura rap, proprio per il suo stile che unisce un po' il rap con appunto la letteratura, la storia, la filosofia, la saggistica. E dicevamo prima che è stato appunto proprio un professore, che è tuttora proprio un professore di filosofia. Questa caratteristica così particolare della letteratura rap ha reso Murubutu decisamente uno dei più apprezzati e riconoscibili rapper italiani. Ecco perché, se appunto c'era un artista musicale che meritava di essere raccontato attraverso un libro, attraverso un fumetto, quindi anche con le immagini, non solo con le parole, è proprio Alessio Mariani, quindi in arte Murubutu. La firma del volume dell'illustratore è Ernesto Anderle, come dicevamo prima, già autore per Becco Giallo Editore di volumi come Vincent Van Love, ispirato appunto al pittore Vincent Van Gogh, e Ridammi la mano, un fumetto, un libro dedicato a Fabrizio De André. Quindi già Ernesto ha la mano, come dire, per questi fumetti che prendono ispirazione dal grande cantautorato italiano. Ernesto è scultore, pittore e illustratore. Ha iniziato quasi un po' per gioco il web comic Vincent Van Love, ispirato appunto al pittore Vincent Van Gogh e soprattutto alle lettere del pittore che spediva al fratello, e ha raggiunto grazie a questa idea più di 50.000 follower. La sua pagina Facebook, che si chiama Il Petti Rosso, infatti forse lo conoscerete meglio con questo nome, ha illustrato grandi canzoni italiane, tra cui appunto quelle di Fabrizio De André, come dicevamo prima, ma anche De Gregori e Lucio Dalla, per rimanere un poco in tema bolognese. Il libro, il fumetto, è composto da 150 pagine che offrono veramente la possibilità di immergersi nelle storie di Murubutu, raccontate appunto finalmente anche con delle immagini, perché già le storie che racconta nelle sue canzoni Murubutu rendono molto bene visivamente, ed avere delle immagini sotto è veramente ancora, ti fa immergere ancora di più nelle parole appunto del rapper. Sono 16 le canzoni illustrate all'interno del libro, sono La collina dei pioppi, Anna e Marzio, I marinai tornano tardi, Mare il maestrale, La notte di San Lorenzo, Nix, Franz e Milena, Wordsworth, La vita dopo la notte, La notte di San Bartolomeo, La stella e il marinaio, portinaio. Ancora buonanotte, l'uomo senza sonno, le notti bianche, le invasioni barbariche e grecale, che è quella che abbiamo appena ascoltato appunto. Alcune di queste storie sono sviluppate in lunghe strisce a fumetti, altre invece hanno pochissime pagine, addirittura un'unica ma veramente significativa vignetta, quindi insomma è anche particolare la scelta che poi appunto direttamente Ernesto ci racconterà. Questo volume è, come dire, la ciliegina sulla torta nella collaborazione fra i due, perché appunto, come vi dicevo prima, già da anni Ernesto Anderle collabora con Murubutu perché impreziosisce con i live painting i concerti del rapper. E che dire, ci manca solo di andare ad ascoltare appunto l'intervista che ieri ho fatto Ernesto Anderle, e che ci ha parlato un po' della sua collaborazione con Murubutu e di questo fumetto uscito per Becco Giallo Editore, già in tutte le librerie, perché è uscito mi sembra il 6 febbraio, quindi uscita recente, ma che potete già trovare in tutte le migliori librerie. Buongiorno a tutte e a tutti, siamo qui con Ernesto Anderle per parlare di Murubutu, Rap Conti Illustrati, nuovo fumetto uscito per Becco Giallo Editore. Innanzitutto buongiorno Ernesto e benvenuto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Buongiorno. Allora, come dicevo, il libro è uscito da poco, perché è uscito il 6 febbraio. E com'è stato il riscontro del pubblico? È già, se ce l'hai già avuto un riscontro dal pubblico, hai già fatto dei firmacopie, sei già stato in giro a presentare il libro? Sì, sono stato al Nerd Show di Bologna, sono tornato ieri, è stato molto molto apprezzato il libro, mi ha detto anche l'editore che è in cima alle classifiche delle vendite, e lo spettacolo è andato bene, abbiamo avuto un buon riscontro da parte del pubblico. Tra l'altro uno spettacolo che sarà diviso in varie tappe, la prima appunto è stata Bologna e poi gireremo un po' l'Italia, ci saranno altre date. Che dire, il libro non è stato, diciamo, difficile la realizzazione, perché io e Murubutu abbiamo una grande intesa artistica, perché lui attraverso i suoi brani, diciamo, racconta delle storie, delle personalità, delle vicende, dei luoghi, e quindi genera subito in me le immagini e il procedimento, quindi non è affatto difficile, e spesso le immagini che poi ricreo attraverso i testi di Murubutu, cioè spesso mi scrivono nei commenti: me lo immaginavo così, era proprio come l'avevo pensato anch'io così, cioè comunque c'è un riscontro anche di questo tipo, quindi sono contento, siamo contenti, io e Murubutu. Parliamo un po' di questa collaborazione, perché come hai detto tu, appunto, tu e Murubutu in realtà già collaborate da un po' di tempo, perché tu crei i live painting per i suoi concerti, quindi già vi conoscevate da un po'. Sì, non è la prima volta che ci esibiamo, ormai sono un paio d'anni che faccio alcune delle sue date più importanti, dove appunto disegno in tempo reale su un mega schermo mentre lui si esibisce. Questa cosa per molti è come se completasse uno spettacolo, appaga a livello visivo e anche a livello musicale. C'è stata qualche differenza nella collaborazione per appunto questi live painting e per invece fare un fumetto su carta, insomma? Ma guarda, in realtà sono due cose diverse, perché quando lavoro a un libro illustrato, sono in una situazione di completa calma, dove mi faccio il caffè con calma, prendo gli strumenti, guardo, ho il tempo di meditare, tempo di correggere, di rifare, di sbagliare, così. Invece durante un concerto, se faccio un errore, lo vedono 2000 persone in tempo reale, quindi sono un po' più, devo essere tipo concentrato al massimo e il margine di errore è bassissimo, quindi è una cosa un po' diversa, diciamo che fare il libro è stato un po' più rilassante. Sì. Tu quanti anni mi dai? quanti giorni mi dai, non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai. Glielo disse alla sera anche parlando fra sé, che tu mi vedo non veda sarò sempre con te. Conobbero al primo imbrunire sul finire d'agosto, la sua sentiero sottile che dalle colline svaniva nel bosco. Laura aveva 20 anni, il sorriso gentile della gente del posto, lui lavorava nei campi, sui palmi, l'odore del trifoglio, e si videro in viso tra un pioppo ed un olmo. Non aveva un profilo fine, un corpo scolpito nel bronzo, quando la vide all'improvviso le disse per aprirle il suo mondo. Da bimbo pensavo ci fosse un sole nuovo ogni giorno, le nascose il volto per sorridere di nascosto, ma ciò che le disse il suo polso era che quello era più di un incontro, e se già la seconda guerra del mondo infuriava tutti intorno, i loro occhi fermi, il mondo che girava tutto intorno. Laurettino fra i tanti belli e poveri unici, lui figlio di un ciabattino, lei che era terza di 11, adesso avevano tutto e non avevano niente, sapevano non sarebbe stato semplice, sarebbe stato per sempre. Tu quanti anni mi dai, quanti giorni mi dai, non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai. Glielo disse alla sera anche parlando fra sé, che tu mi veda o non veda sarò sempre con te. Tu quanti anni mi dai, quanti giorni mi dai, sai da adesso alla fine, sali sulle colline, io sarò lì con te, con te, con te. Laura aveva gli occhi di fata, Dino non era fatto per fare il subito, tant'è che entrò nella resistenza subito. Quando vennero i fasci a cercarlo una sera, era già coi nostri nei boschi in attesa della primavera. E così fu il destino, Dino si fece vivo sempre meno, se veniva a trovarla da clandestino la portava in un covo segreto, e giorno volava nascosti tra albero e albero, mentre il campanile in paese suonava le ore dell'angelo. Poi venne novembre, Dino pareva sparito per sempre. In dicembre una neve insistente cadde all'arrivo delle truppe tedesche. Laura attese paziente, vide schiacciarsi il torrente. Ad aprile vide il bosco vagire, gonfiare le gemme. Si rincorsero voci, ognuna diceva qualcosa. Dino è stato colpito, cambiato vita, una donna nuova la sforza. È scappato a Londra, ora trama nell'ombra. Dino ha tradito, è passato coi fasci, ora lavora giù a Roma. Ma Laura, anche se non sapeva, sapeva una cosa: il suo Dino era vivo e l'amava tanto ora come allora. Il pensiero di lui si muoveva nell'aria costante, dalle cime alla valle fino ai nidi di rondine sotto i tetti delle strade. Le diceva fra i venti: non turbarti, perché, perché, perché tu non mi perdere, anche se tu non mi vedi sarò sempre con te, con te, con te. Prova a sorriderne. Laura non chiese ma tenne fede, speranza e ragione. La chiamarono pazza, malnata, malata d'amore, ma lei col dolore non aveva voluto nessun altro. Lui stava tornando, lo aveva scritto dentro sul mare. Era un giorno più caldo, il vento inseguiva le scie delle lepri, il sole di maggio era alto, aveva già passato lo zenith. Una sagoma lontana venne fra i germogli dei boschi, un uomo smagrito, patito, con una barba di 1000 giorni. Era tornato Dino, il tempo è un pianto che non si recupera. Braccio scarno, un numero alto degli internati di Buchenwald, ma negli occhi lo stesso chiarore, lo stesso sorriso. Le disse: non so se per te lo stesso, io sono lo stesso. Cominciò il cammino e vissero intensamente, videro rinascere in Italia insieme nel CLN. Insieme vissero anni finché lui una sera si spense, ma poco prima le prese le mani e le disse sorridete. Tu quanti anni mi dai, quanti giorni mi dai, non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai. Glielo disse alla sera anche parlando fra sé, tu mi veda o non veda sarò sempre con te. Tu quanti anni mi dai, quanti giorni mi dai, sai da adesso alla fine, sali sulle colline, io sarò lì con te, con te, con te. Com'è avvenuta invece la selezione delle canzoni? Perché all'interno ce ne sono 16 che però non hanno, diciamo, tutte la stessa lunghezza, lo stesso peso all'interno del libro. Quindi ti volevo chiedere un po' qual è stato il processo creativo per scegliere, per selezionare le canzoni e anche che importanza ogni canzone ha. Ma allora io avevo già illustrato 3 canzoni di Murubutu, e la prima, I marinai tornano tardi, l'avevo fatta proprio così, non lo conoscevo neanche Murubutu personalmente, l'avevo fatto per la mia pagina Facebook di Roby il Pettirosso e gli avevo chiesto se potevo pubblicarla, e quindi ci sono anche nel libro, ho inserito anche le canzoni che avevo già illustrato, e poi le altre che ho inserito nel libro ho deciso di mettere quelle perché sono quelle che più mi hanno emozionato. Nei libri che realizzo cerco sempre di essere me stesso, cioè non riuscirei a illustrare una canzone perché mi viene richiesta e magari non la sento mia o non mi piace o così. In questo devo dire anche che ho avuto la massima libertà sia da parte degli editori che da parte di Murubutu, il quale non mi ha imposto piuttosto di illustrare alcune canzoni, o cioè mi ha detto fai tu, e si è fidato, e questa cosa mi ha alleggerito il processo creativo e inevitabilmente ne ha anche potenziato il risultato. Ecco. Il processo creativo proprio per la stesura dei disegni, cioè sei partito da una canzone in particolare, poi ti sei spostato, ne hai fatto una al giorno, sono un po' curiosa su come è avvenuto. Ma guarda, in realtà a me succede questa cosa qui, io entro diciamo nel mondo del cantante che decido di illustrare, finisco quando ne esco, cioè io vengo come rapito da qualcosa, devo cogliere quel momento che di solito è un mese, due mesi, dipende da quello che devo fare. Comunque cioè, lavoro molto di getto io, non riesco tipo a fare a illustrare una canzone, poi dopo un mese illustrarne un'altra, e dopo due settimane un'altra ancora. Cioè quando creo sono come un fiume in piena, perché è difficile disegnare non essendo dentro il contesto, ed entrarci è un procedimento che non viene a comando. Non avviene così facilmente, serve una certa tranquillità, una certa immedesimazione. Magari faccio anche qualche viaggio per aiutare la mia creatività a sviluppare un concetto di impostazione di immagini. Lenta la nottata che inondava come lava quella strada e la sua casa bianca in via Pascal. Nel tempo l'aria era cambiata e la città si era ingoiata, la campagna circondata da palazzi e bar, e fuori il mondo cambiava là intorno alla casa. Poi giorno per giorno il contorno Vittorio guardava lassù il d'avanzare, sua moglie in soggiorno cantava un'aria in fa di Bach. Donata amava la rugiada che imperlava la genziana germogliata ed invidiata in tutto il boulevard, e il suo sorriso un po' attempato, un'alba ambrata che sorgeva ogni giornata dentro i margini del suo foulard. A volte lui domandava, la immersi nell'ava, che pensi Donata? La notte è un codice, chiama i tuoi occhi non i c'è in giada. Intanto lo guardava e gli diceva ancora, resta con me, con me se stai con me tu qui stasera. Il sole non c'è, non c'è là fuori e notte, il buio impera. Sembrava eterna là dopo la grande guerra, quell'estate in cui la vide per le strade della sua città, presso una breccia dovuta alla contraerea. Lui aveva un po' di terra messa a regola là in via Pascal, e la incontrava ogni tanto intrecciando il suo sguardo e i suoi occhi tra i fori del marmo. Si presentò all'alba coi fiori di campo, parole d'amore e soffioni nell'aria. Com'era bella la sposa vestita a festa, radiosa, pudica e fresca, poi donna felice e puerpera. E in quella terra un tugurio, poche finestre, da buco di rovi e vespe, divenne di luce e festa. E lui con le sue mani ne resse le basi, poi piani, le travi, il domani, negli acri fra i tigli, negli anni coi figli, e i figli dei figli, lei che piange di felicità. Resta con me se stai con me tu qui stasera. Il sole non c'è, non c'è. Cielo nero, un vero gelo, la tracciava un suo disegno nell'oscurità. Quando lei disse, sai non temo anche se tremo, sai che credo che staremo sempre insieme senza verità. Colpi di tosse nel buio di quella notte, quando lei perse le forze, poi sognando se ne andava altrove. Pioveva fiotti le nubi sopra la coltre, quando lei chiuse i suoi occhi, lui non resse, la seguì in due ore. Caldo del pianto e il vuoto nel cardio, anche senza più fiato, lei sembrava chiamarlo. Una vita accanto, la mente funziona a incastro, a capire a fondo il mondo, ogni giorno ti serve l'altro. Oggi non nevica fuori, c'è l'erba medica, Donata canta piano, guarda fuori con curiosità. E c'è un cartello là fuori, c'è scritto in vendita, e osserva chi si ferma per guardarlo lungo via Pascal. A chi chiede di chi era quella casa nella via, e la gente gli risponde che cent'anni fa visse una coppia, una storia d'amore autentica, una storia così bella che si dice siano ancora là. Resta con me, sera il sole non c'è, non c'è là fuori e notte, il buio impera. Resta con me, con me, se stai con me, la notte è piena. Stare io e te non basterà una vita intera. Il pezzo preferito di Murubutu che hai illustrato all'interno di questo libro qual è? Allora, il mio testo preferito è la prima canzone che ho ascoltato di Murubutu, che è I marinai tornano tardi. È una canzone che quando l'ho ascoltata mi ha emozionato e quindi resta sempre al primo posto. Poi ovviamente ho delle canzoni preferite per album, diciamo, per esempio dell'ultimo suo album Tenebre la notte, la mia canzone preferita è, ce ne sono tante, non saprei neanche, perché ogni canzone è particolare, capito? Non si possono paragonare due canzoni, perché ogni canzone tira fuori una parte di me è differente, capito? La canzone che ho fatto con Caparezza tira fuori il mio lato romantico, teso come romanticismo decadente di un'epoca. Notti bianche mi tira fuori invece un lato più, non so come potrei definire. È difficile parlare delle canzoni, per questo le illustro, perché con le immagini mi riesce meglio, perché le canzoni poi parlano già da sé, certo. E ognuno trae i suoi benefici, ecco. Come dicevi, sei stato appunto a Bologna al Nerd Show e ti ritroveremo qua per qualche altra presentazione tra poco, o girerai un po' l'Italia? Gireremo un po' l'Italia, la prossima data è a Torino, so che ci sarà una data a Reggio Emilia, che comunque lì vicino. Bologna per il momento non, cioè la data era quella che c'è stata al Nerd Show, non escludo altri eventi, diciamo, perché poi è sempre in fase di elaborazione, cioè per ora abbiamo le prime 5 date e poi magari ne verranno altre 5 tra un mese, magari tra queste c'è Bologna, non lo so. Nel frattempo direi in tutte le librerie già dal 6 febbraio Murubutu Rap Contro Illustrati per Becco Giallo Editore. Sì. Perfetto Ernesto, grazie mille, i complimenti per il tuo lavoro sia a te che a Murubutu e a questa vostra collaborazione. Grazie a voi dell'intervista, è stato un piacere e niente, a presto. Grazie. Ciao. Quando è che mi porti con te? Voglio vedere quello che vedi. Gli aveva chiesto appena dopo le nozze, nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando agli peggio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la cosa, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e smaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, eccolo lì che compare, e rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, e questa volta che fa? Fosse una domanda scema, una cantilena che diceva: resti o vai? Che fai? Che fai? Resti. Quando tace cosa pensi? Vai. Il nostro amore di silenzio. Fai. Cara mia, ma dove guardi? Fai. I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto, al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sfondo, con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte, appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma, carica di polvere dovata, sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde, la costa di roccia che si stende fra Genova e Dolone, col manto bianco alle falde delle Azzorre, le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zanzare esplosono ovunque ad aprile, ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce, per il resto è solo fatica, è una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi se lei è scortese, e il velo del vento lambiva le vie del paese, e si portava via le speranze di stare insieme, le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese. Resti o vai, che fai, che fai? Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire l'aurora, e lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma, verso porti e moli, a 30 nodi, nuovi soli, oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato, e sarebbe riuscito a stupirla ancora, come l'ultima volta che è tornato a tarda ora, le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia, dicevano le donne salutandole sulla terrazza, e lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari, a vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare, dal mare. Sono 10 anni che è morto. Vai, che fai, che fai? Resta quando tace, cosa penso? Vai, il nostro amore di silenzio. Vai, cara mia, ma dove guardi? Fai, i marinai tornano tardi. Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. In the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. See no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitence we pack, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a cheat today, but you made it in a sleazy way. Sell a crack to the kid. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on. That's just the waiting. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can't a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the locks, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back, cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tap, tap, tap, tap. That's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Never change. Ore 11.37, siete sintonizzati su Radio Città Fujiko e state ascoltando la voce di Rachele Copparoni e questo è Fuji Comics. E siamo tornati in diretta dopo aver ascoltato Tupac con Change. Continua insomma il nostro viaggio all'interno un po' della musica rap italiana e non, perché appunto Tupac, come penso tanti di voi conosceranno, è stato un rapper attivista e anche attore, non dimentichiamolo, statunitense, considerato sicuramente uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante in realtà la brevissima carriera musicale, perché è scomparso a solo 25 anni nel 96 a Las Vegas per una sparatoria. Ma non entriamo nel merito di questa storia, perché insomma si farebbe un po' troppo lunga. 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, uno dei degli artisti rapper di maggior successo commerciale. La rivista Rolling Stones l'ha collocato all'86° posto nella sua lista dei 100 migliori artisti di sempre, e la canzone che abbiamo appena ascoltato è appunto Change, estratto dalla raccolta Greatest Hits e pubblicato nel 98. È stato registrato nel periodo in cui Tupac faceva parte della Interscope Records, e il brano parla un po' appunto della sua vita quotidiana, quindi la sua difficoltà di vivere nel ghetto, di razzismo, di brutalità della polizia, della violenza di strada, e appunto, come si intuisce dal titolo, della possibilità e della speranza di un cambiamento sia della società, ma soprattutto un cambiamento che si deve vedere inizialmente a partire proprio da noi stessi. Tra l'altro, arta curiosità, il brano ha ricevuto una nomination come migliore interpretazione rap solista ai Grammy Awards del 2000. E iniziamo anche a ricordare i contatti con cui potete raggiungerci. Allora, innanzitutto il nostro numero di telefono in cui potete mandare un sms, un messaggino su WhatsApp o su Telegram, e il numero è il 333 180 9494. Mi raccomando, mandateci dei messaggini e fateci sapere, non so, ad esempio, qual è la vostra canzone rap preferita del momento o in generale della vostra vita, se ne avete una, se oppure non le avete, se conoscete un po' questo genere musicale, e se magari Murubutu, visto che abbiamo parlato di lui fino a poco fa, può essere, come dire, un po' una via di mezzo per quelli che fanno fatica ad ascoltare il rap, ma comunque le piace il cantautorato, in questo caso italiano. E andate anche a visitare il nostro sito www.radiocittafujiko.it, in cui potete trovare tutte le interviste sia delle scorse puntate di Fuji Comics, ma insomma di tutta la nostra redazione, sia culturale che giornalistica che musicale. Quindi andate a dare una sbirciatina al sito, e ovviamente seguite anche sui social la nostra radio. Ci trovate appunto come Radio Città Fujiko sia su Instagram che su Facebook.

finger licking good, y'all. DJ Hurricane, finger licking good, y'all. Siamo tornati in diretta dopo questa canzone un po' pazza dei Beastie Boys, così per non addormentarci durante questa mattina di questo mercoledì mattina. E siamo tornati appunto in diretta per parlare un po' di novità del mondo dei fumetti e delle graphic novel, e soprattutto per parlare del Comic-Con 2020, il salone del fumetto di Napoli che si terrà presso la mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio, quindi i mesi prossimi, uno dei più importanti incontri nazionali per quanto riguarda appunto i fumetti. È stato annunciato che Frank Cho sarà tra gli autori internazionali ospiti appunto a questa edizione del Comic-Con. Frank Cho nasce in Corea del Sud e a 6 anni si trasferisce negli Stati Uniti. Inizia la sua carriera appunto, parte un po' da autodidatta, scrivendo e disegnando per University e per il The Diamondback, il quotidiano studentesco dell'Università del Maryland. Dopo la laurea, Frank Cho realizza le sue celebri strisce Liberty Meadows, che successivamente, siccome che diventa un po' come dire stanco della censura dei quotidiani per il quale lavorava, pubblica con Image Comics. In Italia queste strisce sono state rilanciate da Salta Press insieme anche ad altri volumi dell'autore, quindi sono disponibili appunto anche qui in Italia. La carriera di Frank Cho è veramente varia e ampia, infatti ha lavorato sia in casa Marvel, ad esempio per Devil, Spider-Man, New Avengers, Hulk, Wolverine, per citarne appunto solo alcuni dei tanti, e appunto in Italia sono disponibili per Panini Comics. Parallelamente all'attività di copertinista per le principali case editrici americane, Frank Cho porta avanti anche numerosi progetti personali, tra cui Fight Girls, Skyborn e World of Pain. Quindi diciamo che iniziamo un po' a metterci in testa quali saranno gli ospiti, gli autori internazionali in questo caso del Comic-Con 2020, anche se, come dicevo appunto, mercoledì scorso ce n'è ancora di tempo per ragionarci su, perché sarà dal 30 aprile al 3 maggio, quindi ancora abbiamo un po' di tempo. Nel frattempo, prima di continuare un po' a parlare di novità, perché appunto dobbiamo parlare di Panini Comics, della DC, insomma un po' di novità editoriali, continuiamo ad ascoltare un po' di musica e torniamo in Italia, e qua devo dire che torniamo con un grande ritorno, perché ascolteremo Fabri Fibra con Stavo pensando a te, una delle canzoni che la scorsa estate mi è girata più nella testa, e penso non solo a me perché ha veramente spopolato. Tra l'altro Fabri Fibra, sono molto legata a lui perché è della mia stessa città, di Senigallia. Tanti pensano che sia milanese, in realtà è milanese d'adozione perché è nato e cresciuto a Senigallia, nelle Marche, appunto nella mia stessa città. E quindi andiamo ad ascoltarci subito Fabri Fibra con Stavo pensando a te, e poi torniamo in diretta per parlare ancora un po' di fumetti e di novità. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te. Che figata andare al mare quando gli altri lavorano. Che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano. Che figata non avere orari, né doveri o pensieri. Che figata tornare tardi con nessuno che chiede dov'eri. Che figata quando a casa scrivo, quando poi svuoto il frigo. Che fastidio sentirti dire sei pigro, sei infantile, sei piccolo. Che fastidio guardarti mentre vado a picco, se vuoi te lo ridico. Che fastidio parlarti, vorrei stare zitto, tanto ormai hai capito. Che fastidio le frasi del tipo, questo cielo mi sembra dipinto. Le lasagne scaldate nel micro, che da solo mi sento cattivo. Vado a letto ma cazzo è mattina, parlo troppo non ho più saliva. Promettevo di portarti via, quando l'auto nemmeno partiva. Pensando a te, non avremmo mai. qui bello il posto. Faccio una foto, sì, ma non la posto. Cosa volete, vino bianco o rosso? Quante ragazze, frate, colpo grosso. Non bere troppo che diventi un mostro. Me lo ripeto tipo ogni secondo. Eppure questo drink è già il secondo. Ripenso a quella sera senza condom. Prendo da bere ma non prendo sonno. C'è questo pezzo in sottofondo. Lei che mi dice voglio darti il mondo. Ecco perché mi gira tutto intorno. Mentre si muove io ci vado sotto. Ma dalla fretta arrivo presto troppo. E sul momento non me ne ero accorto. E poi nemmeno credo di essere pronto. E poi nemmeno penso di essere sobrio. E poi un figlio non lo voglio proprio. E poi a te nemmeno ti conosco. Cercavo solo un po' di vino rosso. Però alla fine vedi è tutto a posto. Si vede che non era il nostro corso. Si dice tutto fumo e niente arrosto. Però il profumo mi è rimasto addosso. Vedi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci. Vedi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto incontrarci. Mi guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire. Perché mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te. Non avremmo mai dovuto lasciarci. Perché mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te. Non avremmo mai dovuto incontrarci. E questo era Fabri Fibra con Stavo pensando a te, ma torniamo a parlare di fumetti. E torniamo a parlare, appunto, come vi avevo anticipato prima, della Panini Comics e della DC. Come sapete, la Panini Comics ha di recente acquisito i diritti di pubblicazione, appunto, della DC Comics, e in un video sui propri canali social la Panini ha annunciato come saranno pubblicati a partire da aprile i fumetti proprio della DC. Ad aprile saranno esordiranno, diciamo, i primi spillati da edicola, e quindi si partirà con Batman, Superman, la Justice League, Wonder Woman e la DC Event, che raccoglierà tutti gli eventi a partire da Leviathan. In fumetteria invece ci saranno i mensili monografici spillati dedicati ad Aquaman, Lanterna Verde, Flash e Harley Quinn. E ad aprile in fumetteria, quindi sempre tutto ad aprile uscirà, sarà pubblicato anche The Dark Knight Returns, The Golden Child di Frank Miller e Raphael Grampa, primo titolo della collana DC Prestige Black Label, che sarà distribuita unicamente in fumetteria e sullo store online di Panini, quindi una cosa, diciamo, un pochino più di nicchia. Ci sarà anche la collana da libreria della DC Library con nuove edizioni e nuove traduzioni di grandi fumetti come Watchmen e Il ritorno del Cavaliere Oscuro, quindi i grandi fumetti un po' capisaldi della DC Comics, e anche unite a delle proposte un po' più recenti come Action Comics 1000 e Detective Comics 1000, già sempre a partire tutto da aprile. I primi numeri delle 10 nuove serie saranno presentati anche in edizione variant con copertine legate ognuna a diverse città italiane, quindi anche questa, diciamo, che è una cosa un po' speciale fatta appunto dalla Panini Comics per questo nuovo acquisto dei diritti di pubblicazione della appunto della DC. Tra queste città italiane che si troveranno appunto nelle copertine in edizione variant ci sarà anche Modena, che avrà che diciamo sarà nel fumetto di Batman. Modena perché sarà proprio una delle capitali dei festival del fumetto dal 3 al 5 aprile. aprile, e ci sarà proprio la casa editrice presente con uno stand tutto a tema DC, e si troveranno anche a Romix, che invece sarà dal 2 al 5 aprile, quindi comunque in concomitanza o Modena o a Roma, in cui saranno presentati 5 albi alfa e una selezione di numeri, uno delle nuove testate, anche gli albi alfa in edizione con cofanetto. Quindi insomma, se a inizio aprile siete a Modena, siete vicino a Modena o siete vicino a Roma, mi raccomando, se siete avanti, se siete dei grandi amanti della DC Comics, fatevi vedere, fate un giro appunto a Modena per il Play Festival del gioco, oppure a Romix appunto di Roma, per acquistare qualcosa di queste novità proposte dalla Panini Comics. E l'ultima cosa che vi volevo un po' raccontare, perché mi fa molta gioia, mi fa molta felicità, perché si parla di un'artista che è stata presente qua nei microfoni di Radio Città Fujiko in occasione del Billboard Bull, e sto parlando di Kalina Muova, che ha pubblicato per Canicola Edizioni nel 2019 di Anna Sottosopra. Praticamente cosa è successo? Sono stati annunciati i vincitori dei premi dedicati a il Bologna Children's Book Fair, la manifestazione fieristica, una delle manifestazioni di maggior rilievo a livello internazionale dedicata al settore dei libri per bambini e per ragazzi, che si terrà dal 30 marzo al 2 aprile, e già sono stati appunto annunciati i vincitori. Le categorie sono 3: Early Reader, Middle Grade e Young Adult, e una selezione fatta da una giuria di esperti, di giornalisti, di scrittori, appunto selezionato i vincitori. E oltre ai vincitori consacrati appunto con la medaglia, diciamo, per ciascuna categoria, oltre al libro vincitore ci sono anche alcune menzioni speciali, e proprio tra queste menzioni speciali troviamo Diana Sottosopra di Kalina Muova, pubblicato appunto per Canicola Edizioni. La troviamo menzionata nella categoria Middle Grade, quindi diciamo nella categoria età di mezzo, se così la possiamo chiamare, e io sono molto felice per lei perché il suo lavoro è veramente fantastico, e appunto è stata ospite qua ai microfoni di Radio Città Fujiko. Se volete potete andare a recuperare l'intervista sempre nel nostro sito www.radiocittafujiko.it, era l'intervista relativa appunto al Billboard Bull 2019, o altrimenti potete anche cercare Fujicomics su Facebook appunto troverete l'intervista dedicata a Kalina e il podcast dell'intera puntata, che era appunto dedicata al Billboard Bull. Ma siamo ormai giunti a mezzogiorno, quindi ci andiamo a ascoltare ancora un pochino di musica, sempre un po' di rap italiano con Coez, sempre bello, una delle nuove uscite del suo ultimo album. Andiamo in pubblicità e poi torniamo per l'ultima mezz'ora di Fujicomics. È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello avere 18 anni. È bello se mi chiami, è bello se rimani. È bello se rimandi un po' quando stai per venire. Ho un fascino più forte, tutto ciò che può finire. L'hai visti i nuovi euro, da 20 bocche dire. I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire. È bella questa stanza, pure se ci sto da solo. È bello questo hangover, visto che oggi non lavoro. È bello se scoppiamo al buio, invece fuori è giorno. È sempre bello averti intorno. Oggi voglio andare a... non è bello. Oggi sai che voglio fare? Fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello. Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, sapere stare da soli. È bello essere il primo, bello andare lontano. Stamattina col sole era bello anche Milano. E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Quando piove io mi scordo l'ombrello.

non scende a patti, la Roma dei coatti, le comitive sui muretti, le borgate, la periferia, i palazzi, la Roma degli sguardi che finiscono in scazzi, nei cortili qualcuno sta vendendo, qualcuno sta comprando, una sirena e stanno già scappando, via di qui, tocca darsi al più presto, per lasciare un segno in mezzo a tutto questo. La Roma dei romani, de Roma, de chi la vede per la prima volta e ci si innamora, la Roma bene acchittata, che per acchittar se paga, le sale giochi la mattina coi pischelli che hanno fatto sega, il fronte, i fasci, il forte, gli autonomi, le situazioni brutte, di notte, stazione Termini, il biondo Tevere, il cielo sopra Roma che non smette mai di vivere. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Questi erano i Colle del Fomento con Il cielo su Roma, un po' di sano rap italiano, un po' di sano rap underground romano, classe 1994. Loro erano appunto Danno Masito e DJ Baro, classe 1994, veramente ormai è passato un po' di tempo, anche se inizialmente il gruppo era formato da Danno Masito, il Piotta e anche dal produttore discografico Ice One, che è stato appunto sostituito nel 99 da DJ Baro. E tra l'altro sempre all'inizio non si chiamavano Colle del Fomento ma si chiamavano Taverna Ottavo Colle, nella formazione in cui appunto c'era anche il Piotta, che poi se n'è andato e sono diventati appunto i Colle del Fomento. E la canzone che abbiamo appena ascoltata era Il cielo su Roma, contenuto all'interno del secondo album in studio del gruppo, che si chiama Scienza WH, pubblicato nel 1999 dalla Mandibola Records. Le 12:11, siamo ormai giunti verso la fine di questa 17ª puntata di Fuji Comics e siamo arrivati all'ultimo contenuto esterno, l'ultima rubrica che compone appunto queste due ore di diretta di Fuji Comics su Radio Città Fujiko 103.1, che è un po' il calderone finale in cui racchiudiamo tutti gli eventi della settimana, sia da questo mercoledì fino insomma alla prossima settimana, alla prossima diretta, quindi a mercoledì prossimo. Questa volta c'è stato un nuovo cambio di voce, perché sentirete ai nostri microfoni Sofia, una delle ragazze che fa parte della una delle redattrici culturali che fa parte appunto della redazione culturale di Radio Città Fujiko, e all'interno di questo contenuto sono appunto si va appunto a guardare tutti quanti i appuntamenti che riguardano i fumetti e le graphic novel a Bologna, ma non solo, perché come vi dicevo all'inizio, all'interno del menu della puntata, siamo arrivati fino a Ferrara e a, non mi ricordo il nome dell'altra città, ma insomma vicino a Verona, per due importanti fiere del fumetto e anche dei dischi, se non mi sbaglio quella di Ferrara. Comunque andiamo a sentirci subito il contenuto esterno con la voce di Sofia e torniamo in diretta per i saluti finali. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, io sono Sofia Marasca e bentornati nella rubrica degli appuntamenti settimanali nell'ambito dei fumetti e delle graphic novel. Partiamo con giovedì 13 febbraio alle ore 17:30 Presto la sala incontri della Biblioteca Sala Borsa riparte Disegnando 2020. Cosa c'è dietro alle quinte delle storie disegnate? Cosa guida l'ideazione e la realizzazione di tavole amate da tutti? Per rispondere a queste domande e a tutte le altre che curiosi e che appassionati possono porsi, c'è Disegnando, il ciclo di incontri con gli autori, sceneggiatori o illustratori che parlano del loro mestiere. Questo giovedì Keiko Ikiguchi dialogherà con Paola Scrolavezza. Nata a Osaka il 19 dicembre 1966, dal 1994 Keiko Ikiguchi vive e lavora a Bologna. Scrittrice e mangaka, ha esordito nel mondo dei fumetti nel 1988, quando ha ottenuto un premio al concorso per i nuovi talenti della casa editrice giapponese Shogakukan. La sua ultima opera è Memorie di Iris, Ikari Edizioni 2014. Nata per promuovere il Museo Stibert di Firenze in collaborazione con la Fondazione di Palazzo Strozzi. Sempre giovedì 13 febbraio a Ferrara, presso la Sala Estense alle ore 21, ci sarà la presentazione di Quando tutto diventa blu, la graphic novel di Alessandro Baronciani, che diventa un concerto a fumetti con Sooner, il Project Festival targato Arci Emilia Romagna. Il progetto, curato da Alessandro Baronciani e Corrado Nuccini di Giardini di Mirò, vedrà sul palco anche Daniele Rossi al violoncello e avrà come voci Ilaria Formisano, Gomma e Erskine. Ad ogni data ospiti tra i nomi più importanti dell'India al femminile e non solo, che interpreteranno pezzi originali. Il tour toccherà i circoli arci del territorio emiliano e alcuni appuntamenti fuori regione. Rimaniamo a Ferrara per il Ferrara Comics, che si terrà il 15 e il 16 febbraio in via della Fiera 11. L'Associazione Culturale Colosseo, che organizza l'evento, si occupa di promozione e diffusione di tutte le forme del collezionismo, organizzando appositi convegni in collaborazione con enti pubblici e privati. Lo scopo delle manifestazioni è quello di offrire ai collezionisti e agli appassionati l'opportunità di trovare tra centinaia di dischi e fumetti il pezzo mancante alla propria collezione, oppure ammirare il materiale discografico e fumettistico da collezione con il fascino delle epoche passate. Oltre al consueto incontro di centinaia di collezionisti e hobbisti provenienti da ogni parte d'Italia, le manifestazioni prevedono alcuni spazi dedicati alla cultura musicale e fumettistica e ai suoi artisti più famosi. Concludiamo con il Cerea Comics il 15 e il 16 febbraio nell'area Expo Cerea, in via Oberdan 10. Cerea Comics propone una grande mostra mercato rivolta interamente al fantastico mondo dei fumetti, manga, anime, modellini, action figures, videogiochi, retro games, giochi, giochi da tavolo, miniature, tornei di carte collezionabili, role playing games, associazioni culturali, autori, mostre, youtubers e ara K-pop. Autori e ospiti internazionali. Una sezione Artist Alley Project dedicata a illustratori e disegnatori di fumetti emergenti e professionisti. Una sezione self-area per piccoli editori indipendenti. Il grande mondo del cosplay con gare e rappresentazioni. Anche Cerea Comics è uno degli appuntamenti cosplay Synergy. È previsto un ricco programma di eventi. Gli appuntamenti della settimana terminano qui. Vi auguro buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ancora un saluto da Sofia Marasca. Bella. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. So hold on tight as I rock the mic, right? Oh, excuse me, but don't ask a synchronizer with the analyzer. Upcoming vibes, the session. Let there be a lesson, question. You carry protection. Now when your heart go up like Celine Dion, come a chameleon. Yeah, straight from the top of a dome. As I rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock the microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As I rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock the microphone. Loro erano i Bone Funk MC con Freestyler, il loro singolo, decisamente il loro singolo più famoso, pubblicato nel 1999, ed erano appunto i Bone Funk MC, gruppo hip hop finlandese formato nel 97. Io questa canzone quando ero piccola la adoravo. E insomma è finito un po' così il nostro giro all'interno, il nostro viaggio all'interno del mondo del rap, partito da Murubutu e arrivato fino all'hip hop finlandese. Pensate un po' che giro del mondo abbiamo fatto oggi. E intanto continuano anche a arrivare i messaggi al 333-1809494 da Maurizio di Dopamina, che ci dice: ottima puntata e splendida colonna sonora oggi. Grazie, grazie, grazie Maurizio, sono molto contenta che ti sia piaciuta un po' questa mia anima rap, che ogni tanto in qualche puntata, prendendo un po' spunto dagli artisti che intervisto, posso sfoderare, posso tirare fuori. Ma ormai siamo giunti al termine di questa 17ª puntata di Fuji Comics, infatti sono le 12:23, sta per scadere il tempo e che dirvi, io come sempre ringrazio tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko e ovviamente gli ospiti e tutti coloro che aiutano, mi aiutano a formare, collaborano con me in queste 2 ore di diretta su Radio Città Fujiko. Vi ricordo di rimanere ovviamente sintonizzati, vi lascio alla lettura delle notizie dall'Italia e dal mondo e ovviamente al nostro Last Minute, il contenitore di eventi culturali, musicali e cinematografici di oggi nella nostra città, a Bologna appunto. Vi auguro anche come sempre un buon pranzo e una buona giornata e questa volta non vi do semplicemente appuntamento a mercoledì prossimo, perché sì, ovviamente ci sentiremo mercoledì prossimo con Fuji Comics sempre dalle 10:30 fino a 12:30, ma vi do appuntamento anche domani pomeriggio perché sarò ospite all'interno di Fujiko Factory insieme a Benny e Lucri, quindi mi raccomando rimanete, anzi risintonizzatevi domani pomeriggio, quindi giovedì pomeriggio dalle 3 alle 5, perché ci sarò anch'io ospite, perché si parlerà di fumetti e quindi quando in questa radio su Radio Città Fujiko si parla di fumetti, ecco che spunto fuori anche io. E quindi noi ci sentiamo domani da Fujiko Factory o altrimenti mercoledì prossimo sempre dalle 10:30 a 12:30. Io vi ringrazio e vi auguro ancora una volta buona giornata e ci sentiamo domani pomeriggio con Fujiko Factory. Mi stavo confondendo tra Fuji Comics e Fujiko Factory. E buon pomeriggio a tutte e a tutti. Un ciao da Rachele. Radio Città Fujiko 103.1 FM.